Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. «E che ti ha detto Luigi?» domandò improvvisamente Rea, e mi sbalordì la passione con cui, intesi in principio quel nome e quelle parole dette da me, «Luigi ti manda tanti saluti», le aveva ricevute e sviluppate fino a una preoccupazione così scoperta e angosciata. Aveva sempre mostrato di condividere con la città un blando disprezzo per l'antico marxista, benché in realtà si frequentassero e le loro mogli fossero amiche. Non gli riconosceva altra qualità che quella di divertente. Mi accorsi in quel punto quanto in realtà lo stimasse. Non risposi subito. Cora ci stava mettendo gli spaghetti nel piatto e lui disse «basta» dopo due forchettate. Non mangiava molto, come tutti gli ambiziosi. Sapeva che il mangiare addormenta. «Che ti ha detto Luigi, allora?» chiese dolcemente. E come io mi fingevo distratta, «vorrei proprio saperlo». E prima che io potessi rispondere, «mi odia, di la verità, mi odia». Sentì il rumore della forchetta buttata con ira sulla tovaglia. Era come se improvvisamente il soffitto si fosse aperto e da quel cielo stagnante fossero piovute delle serpi fra i piatti. Continuammo a mangiare, la testa bassa, e poi Pratolini azzardò: «Perché dovrebbe odiarti?» «Non ti odio affatto», dissi io. «Mi vuoi far perdere anche l'amicizia di Anita», si lamentò Cora, la moglie, «come fosse chissà come questa mia vita». E subito amaramente piangeva con la testa sul tavolo. «Stupida», disse Rea, «ora ti do uno schiaffo». Ma non si mosse e, preso in quel suo pensiero, si versò un bicchiere d'acqua. «Non mi odia forse, ma certo gli do fastidio. Sono il primo scrittore di Napoli, ma questa non è colpa mia. Con lui sono sempre stato gentile. Non lo considero nulla, è vero, anzi, lo disprezzo. Ma questo lui lo sa. La verità è che io sono sano e lui è malato. Sano come scrittore, si intende. Io amo il popolo. Io, anzi, sono popolo. Mia madre era una vammana. Questo è certo, verità vera. In quanto a me sono stato operaio, poi piazzista nel Brasile, infine scrittore. Laggiù ho scritto articoli anche sulla Foglia de Mama, un quotidiano importante, serve per dire. Molti mestieri ho fatto e ora sono scrittore. Non uno scrittore come tanti, io i classici li ho studiati. Boccaccio, Manzoni sono il mio dio. Ho una biblioteca, non dei libri da ridere. Io non rido. Io cresco, vivo, mi espando. Ho delle ambizioni, si capisce. Questa casa è solo il principio. Ma pensa anche agli altri. Voglio che tutti abbiano una casa così, e il bagno e il telefono. Per questo seguo con interesse il partito, e il partito mi segue. Noi ci intendiamo. Noi siamo contro la lebbra e il cancro. Siamo per la scienza applicata alla natura, siamo. Questo è il segreto. Luigi, invece, che vuole? Ride, non fa che ridere. Su un uomo simile io sputo». «Sì, non fa che ridere», disse Guardingo Pratolini, e soggiunse dopo un'esitazione: «è un uomo finito». «Non ti pare?» chiese Rea. «Non si abbandona senza un perché il partito», disse Pratolini. «Qualcosa nell'uomo non funziona più, allora. Io capisco chi non c'è mai entrato, ma giudico chi ne esce». «Anche tu sei d'accordo, no?» chiese Rea. «Trovo che non se ne dovrebbe più parlare», fece Pratolini e si mise a guardare il pesce che Cora gli metteva davanti. «Questa è una delle cose più belle di Napoli. A Roma non se ne trova». Rea invece rifiutò il pesce e prese una mela che dopo un po' buttò via. «È marcia», disse rivolto a Cora. «Portaci il caffè nello studio». Questa stanza sembrava la più piccola, ma anche la più bella di tutta la casa. L'intera parete di destra era coperta da una libreria che arrivava fino al soffitto, piena di volumi vivacemente colorati, quasi tutti nuovissimi, che occupavano gli scaffali di legno chiaro. Un tavolo anche grandissimo, dello stesso legno della libreria, stava davanti a questa, più simile al tavolo di un geometra che di uno scrittore. Tra la libreria e il tavolo, la sedia. Sul tavolo, quasi affatto sgombro, era posata una grossa lampada e un'altra, a forma di imbuto allungato, dipinta di giallo, pendeva da un'asta lì vicino. Il cestino per le carte era in paglia lucida, colorata, e sembrava anch'esso nuovissimo. A terra, in un angolo, la macchina da scrivere e molti libri che non avevano ancora trovato una sistemazione. La parete di faccia era occupata invece da un divanetto e due poltrone di paglia, più un tavolino basso. Dalla finestra, nella parete centrale, si vedevano certe case in cemento armato, sotto il cielo velato, accecante. Rea si fermò sulla soglia, avvolgendo di uno sguardo vigile e appassionato tutte quelle cose, e poi andò a sedersi dietro il tavolo. Pratolini e io ci mettemmo nelle poltrone, mentre Cora rimaneva sulla soglia, guardando dolorosamente il marito con quella medesima aria di sempre, di bestia amata e ferita, come se stesse lì lì per scoppiare in lacrime. Poi, quasi senza che ce ne accorgessimo, uscì. Sentivo che Rea era ancora turbato dai discorsi fatti a tavola e volli distrarlo rivelandogli il vero scopo della mia visita, un'inchiesta per un settimanale illustrato. Pensavo che ne sarebbe stato molto soddisfatto, invece accolse la notizia con indifferenza. Forse non aveva alcuna fiducia nelle mie qualità di giornalista, o lo seccava, come accade spesso a uomini del sud, vedere in certe cose mischiarsi una donna. Certo, non mostrò alcun interesse. «Ah, sì?» disse distrattamente e, rivolto a Pratolini, «la devi vedere finita», indicava con un gesto della mano la stanza. «Non ora. Qui ci viene un tappeto. Quel divano e quelle poltroncine vanno sostituite. Per le pareti ho già in mente certi quadri. Di la verità, a te Crisconio ti sembra buono?» «Non lo conosco, molto poco», disse vagamente Pratolini. «Me ne hanno promesso uno, in regalo». «Beh, è sempre un vantaggio in questo caso», rispose Pratolini. Lo guardavo da qualche momento, e non saprei dire come. Mi sembrava, malgrado il suo sorriso, vagamente deluso, scontento. Venuto a Napoli, forse per affari, ma soprattutto per il bisogno che quelli che sono stati una volta per queste strade hanno di tornarvi, sentendosi esuli in qualsiasi altro luogo, illusi da un che di straordinario che credettero sentire o vedere, come un'aria d'Olimpo in questa misera città, non trovava nulla, nessuno lo aspettava più. L'amico non gli badava e molte cose egli doveva avere sul cuore. Forse, senza che neppure se ne accorgesse, la prepotente umanità, gli affanni del popolano lo infastidivano, e costretto dalla sua fede a cercare certi amici invece di altri, si domandava se non avesse sbagliato chiedendo a Rea il conforto di un colloquio amichevole. «Sai, stanno facendo molte traduzioni del mio libro, in America, in Inghilterra», disse Pratolini rivolto a me, con quel suo sorriso mite, un po' triste, di fanciullo trascurato, e sperava che Rea gli badasse, ma Rea era tornato sovrappensiero. «Non so se andranno molto, comunque». «Perché no?» dissi io. Pratolini stava per rispondere qualcosa, quando Rea lo interruppe. «E di Luigi parlerai?» mi chiese quasi minacciosamente, come se finora non avesse pensato ad altro. Elusi la domanda, mostrando di non aver sentito. «Ehi, dico a te!» gridò irritato Rea, picchiando con una matita sul tavolo. «Ah, non so, non credo». «E invece è importante. Negativo, si intende, ma importante. La Napoli di ieri. Mettilo pure a fianco mio». Riapparve Cora, la moglie, col caffè, e a un tratto quel giovane divenne sfrenatamente allegro. La sua piccola faccia butterata si illuminò come le pietre di Napoli, come quando s'alzano nel cielo notturno, dapprima in silenzio, poi con fischi e fragori altissimi, i fuochi d'artificio. Si alzò, corse ad abbracciare Cora, mettendo in pericolo le tazze che la ragazza riuscì appena a posare sul tavolino, stupefatta e infelice, la fece girare rapidamente stretta a lui e un fiume di parole ardenti, ardite, vanitose, insensate e infantili, tra cui le più incolori mandavano scintille, gli uscì dalle labbra. Cora barcollava e alla fine le riuscì di svincolarsi. «Vatti a cambiare la camicia, piuttosto che alle 3 dobbiamo andare da Anita», disse tristemente. «Le voglio assai bene», rise Rea quando la ragazza fu uscita. «È una femmina di fuoco. Il suo difetto è che piange sempre. Io glielo dico qualche volta. Ti dovevi prendere un marito borghese, di quelli che fanno l'amore solo la domenica. e rise ancora spavaldamente felice. Né Vasco né io, in questo frattempo, avevamo osato parlare. Piuttosto che formulare un giudizio, eravamo sopraffatti da una sorpresa continua, come se il giovanotto che ci stava davanti non fosse un cittadino, ma una forza della natura, una natura epilettica e continuamente sorprendente. Più che Napoli, dove la forza è ormai debolezza, cioè isterismo, egli era la campagna, quei contadini e carrettieri furibondi che premono le porte di Napoli. La terra felice dove il pensiero non esce dai confini del sesso, dal tumulto e il peso del sangue. In un momento era un altro, senza controllo, beato. Eppure non era un fatuo. Anche la sua violenza e la sua vanità erano paurosamente serie. Come aveva avvertito, egli non sapeva ridere. La sua visione della vita non andava più in là dei meccanici contorcimenti del popolo. Queste cose egli descriveva in modo perfetto, ma remoto, essendo egli stesso remoto, antichissimo figlio della natura. Ove non si fosse compiaciuto di questa sua antichità, sarebbe stato perfettamente antico e inconcepibile. Ma egli se ne compiaceva, naturalmente, sapeva di essere antico, e bastava questa compiaciuta coscienza a svuotare le sue forme d'ogni verità, determinando così una frattura del suo mondo creativo. Così che la parte più attiva e più vera di lui era in quelle sue cupezze, in quell'avidità, in quel sospettare continuamente e continuamente temere il giudizio di Luigi, non in quanto letterato, ma uomo, specchio sebbene offuscato di quel poco di coscienza che si era fatta strada dopo la guerra a Napoli. «Di la verità, a te il popolo non ti piace», mi disse Rea bruscamente venendo a sedersi al mio lato. Aveva ripreso l'aria tranquilla che gli conoscevo, guardinga, un po' dura. Lì per lì non seppi che cosa rispondere. «Ti sei scandalizzata poco fa che ho abbracciato mia moglie, eh? Tra voi queste cose non si fanno, siete degli ipocriti!» Neppure questa volta Vasco ed io fiatammo. «Perché non ho ragione?» chiese rivolto a Vasco. «Hai ragione, solo che noi non ci siamo affatto scandalizzati», disse Vasco. «Noi semplicemente guardavamo». «E avevate qualcosa a ridire, forse?» «Niente», disse Vasco. «Niente», dissi io. Sorrise. Un pensiero straordinario gli era passato per la mente e senza più curarsi di Vasco, guardandomi sottecchi, cominciò a sfilarsi le scarpe e mi spiava per vedere se questo fatto riusciva a turbarmi. Aveva certe calze di filo, azzurrine come i calzoni, macchiate di giallo in punta. «Ti piacciono queste calze?» Chiesi quanto costavano e tornò ad irritarsi. «Dici che devi fare l'inchiesta e ancora non mi hai fatto nessuna domanda. Avanti, scrivi!» Prese lui stesso il quaderno a righe che avevo messo sul tavolo e svelto svelto me lo appoggiò sulle ginocchia. Intanto mi spiava per vedere se osservavo i calzini e dondolava il piede proprio sotto il mio naso affinché li guardassi. Io non sapevo che domande fare e me ne stavo lì, impacciata, con gli occhi bassi e un che nella faccia di confuso. Il che vedendo e interpretando come uno smarrimento femminile, mosso da pietà e insieme preoccupato per la chiarezza dell'inchiesta, mi strappò dalle mani il quaderno che un momento prima mi aveva dato, l'aprì e si mise a scrivere lui stesso, con grande e meticolosa attenzione e una certa calma contadina. Aveva per forza dovuto rimettere i piedi in terra, ma già preso nella sua più profonda passione e cura della propria fama, aveva dimenticato quel capriccio. Quando mi restituì quel quaderno, perché rientrava Cora già col cappello in testa, un tubino nero con due piume verdi luccicanti e la veletta, vidi che mi guardava con uno sguardo brillante e pieno di sottintesi, ormai solo professionali, che mi intenerì. Detti un'occhiata al quaderno. Sotto una paginetta fitta di notizie intorno alla sua opera e di quei nomi di critici che lo avevano celebrato, figurava anche un numero, il 200774. «E questo cos'è?» chiesi. «Non ci vedi? Sta scritto sotto», disse guardando Vasco con uno strano sorriso negli occhi. «La mia tessera d'operaio».